5B. Ascolta e rispondi. Dove ci incontrerete? Vi incontreremo al bar. A che ora ci riceverete? Vi riceveremo alle 9. Quando ci avvertirete? Vi avvertiremo domani. Che cosa ci lascerete? Vi lasceremo le chiavi. Dove ci accompagnerete? Vi accompagneremo in segreteria. Quando ci inviterete? Vi inviteremo presto.